interesa la solidaridad. Sus absurdos argumentos para acabar con nuestro sistema y entienda que este socialismo lo escogimos nosotros, que es respaldado por más de 8 millones de cubanos que firmamos la iniciativa de modificación constitucional. Que los jóvenes de hoy, más seguros y más firmes que nunca, vamos a defender bajo cualquier circunstancia, fíjese bien, bajo cualquier circunstancia, este socialismo que nos ha dado lo que cualquier joven del mundo pudiese desear. La posibilidad de ingresar en un centro de estudios universitarios sin pagar un solo centavo, de cultivar nuestro intelecto y crecernos como seres humanos más plenos, la garantía de los más elementales derechos de salud y educación gratuita. ¡Viva nuestra ministra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias! ¡Viva nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias! ¡Socialismo, patria o muerte, venceremos! Fired up. President Bush yesterday in the Rose Garden making one of the most brilliant speeches of his administration to date. In jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein. Possono riassumere queste parole. Promesse, minacce, incassi e alla fine quale coronamento di edificio? This was a fundamental issue in the war with Germany and Japan. Giulio Cesare si è per la diffusione della verità e della pace cristiana. Risuonano colpi di arma da fuoco e delle grida in arabo. Camicieri della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno da Maria, ascoltate! Per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità, grazie di Dio. Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. And hence the security of the United States. The peoples of a number of countries of the world have recently been told to return. La luce che splende sopra di noi, che è nei nostri cuori. Es mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses. Debolezza, forza, coraggio, spina dorsale. sanno, quanti sanno ciò che vogliono. Passerà un giorno e un altro ancora, e come sempre sono tutti uguali, con la gente che ti pressa e che non ti fa cadere. Non vi fate sedurre da piaga schiavitù, che cosa ancora vi sa spaventare? Sono concessi smarrimenti, qualcuno è stato anche in galera. Non vi lasciate illudere ben poco la vita, bevete la gran sossia e non vi sarà bastata. Non vi date conforto, vi resta poco tempo. L'uomo nasce tenero e debole e muore solo, proprio come le piante secche e appassite. E cessate il fuoco, uomini duri, oh, durate poco. Senza ferirsi il palmo delle mani, chi sa vivere nel giusto senza fare degli errori. Dimenticate i lividi di ogni grande fatica, se vi ha reso deboli o se non l'avete amata, ridate alla coscienza ciò che avete perso. Ma non mi preoccupate di non aver lottato. Gli uomini hanno fame, gli uomini hanno fame.